Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Sono le 7:19 minuti e 46 secondi, a differenza del solito non iniziamo con le vostre voci, come avrete intuito già per chi ci segue dalle 6:30. Abbiamo qualche problema con WhatsApp questa mattina, anche con la ricezione dei messaggi audio. Dunque, se volete commentare la trasmissione in diretta, volete dire la vostra, usate gli SMS, i buoni vecchi SMS, che tanto ormai li tirano dietro le compagnie telefoniche. Sempre in 349-238-6666, naturalmente. E c'è la pagina Facebook di 24 Mattino, quella di Radio 24, dalla quale andiamo in diretta video. Qualcuno ha già commentato durante la diretta. Se volete, siamo qua. Questa è la seconda parte della trasmissione, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:20 minuti e 35 secondi. È lunedì 5 ottobre. E le prime pagine dei giornali sono dedicate in gran parte, quantomeno le aperture, sono dedicate ovviamente alla questione del Covid e della nuova stretta che si sta preparando. In arrivo le maximute per chi è senza mascherina, titola per esempio La Stampa. Il ritorno di divieti più duri è il titolo del Corriere della Sera. Contagi, l'allarme di Conte, scontro sulle regole del calcio, è il titolo della Repubblica. Coprifuoco per movida e ristoranti, titola il quotidiano nazionale, il quale racconta che si sta ipotizzando una chiusura alle 22 o alle 23 per i troppi contagi e per i locali pubblici. Il Messaggero si concentra sulla scuola. Distanze inesistenti, ipotesi metà lezioni da casa, ed è la richiesta dei presidi che arriva alla ministra Azzolina. Ovviamente in molti scrivono sul tema, anche associano tutto questo al tema del calcio. Il Fatto Quotidiano, il governo stretta anti-Covid, ma la Lega Serie A se ne frega. Titoli di diverso tipo invece, non dedicati, o meglio, c'è anche Libero dedicato al Covid che ci dice arriva la cura antivirus, parola di Silvio Garattini, il fondatore dell'Istituto Mario Negri, è ottimista sul vaccino, però sono già in fase avanzata di studio, farmaci ricavati dal siero di soggetti convalescenti, ce n'è uno efficace a Siena. Tornano le tasse, è il titolo del giornale, la ripresa non c'è, si avvicina un'altra stretta anti-Covid, ma il governo invia le cartelle fiscali. La verità sulla vicenda vaticana, ci torneremo poi più avanti con Paolo Mieli, perché si è arricchita nel fine settimana di ulteriori cose, bonifici appunto andati in Australia e finiti forse agli accusatori del cardinale Pell. Nell'inchiesta sui fondi vaticani spunta la donna legata a Becciu, ci racconta La Verità. Le indagini portano una 39enne sarda di casa nei Sacri Palazzi, dove sarebbe stata pagata per curare rapporti internazionali. Vanta contatti con la massoneria e col faccendiere Carboni. Il Sole 24 Ore apre sul super bonus, quello del 110% e altri sconti, come venderli e pagare i lavori. Le migliori proposte di banche e altri intermediari arrivano al 100-103% della spesa, opzioni alle entrate dal 15 ottobre. E ci sono i professionisti al lavoro, sono pagina 2 e 3, molto preziose per chi ha intenzione di usufruire di questo bonus. La Gazzetta dello Sport che ci parla, il titolo è Testa, Croce, Leao e Teo Show, Milan al derby da capolista, e Croce dall'altra parte è il caso Napoli con la Juve da sola, il 3-0, Lega e Federcalcio che dicono che si doveva giocare appunto. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso, che trova solo parzialmente spazio sulle prime pagine dei quotidiani. Certo, trova spazio sulle prime pagine dei quotidiani la vicenda quello che è successo nel nord-ovest nelle ultime ore, e forse il giornale che più lo prende a cuore anche per collocazione territoriale è La Stampa. Poi parleremo di questo con il ministro dell'ambiente Sergio Costa, che sarà nostro ospite più avanti nel corso della trasmissione. Il tema è quello dell'alluvione, del mare che restituisce 6 vittime, insomma tutto quello che è successo nel nord-ovest, il dolore tra acqua e fango, e le cronache della stampa ci portano a Limone, dove il paradiso dello sci fa i conti col disastro, è come un terremoto, siamo stremati, dicono gli abitanti in questo reportage di Giuseppe Salvaggiulo da Limone Piemonte, appunto provincia di Cuneo. E ancora nella valle di confine rimasta isolata, molte frazioni irraggiungibili, racconta La Stampa, la quale stampa ci porta anche su una vicenda che ha molto a che fare con il come siamo fatti e il come è fatta l'Italia, perché questa alluvione terribile ha riportato alla luce un caso tipico italiano di opera iniziata e mai completata. Burocrazie, inchieste e adesso Brigitte, questo è il nome del ciclone che si è abbattuto sull'Europa, la maledizione del traforo del Tenda. Il racconto è quello di Maurizio Tropeano, che ci porta appunto ancora una volta su un caso di lavori fermi. Solo questa mattina, con la luce del giorno, dice, si capirà come rimuovere l'acqua che ha riempito il traforo del Tenda. Per ora quei 3.182 metri di galleria che dal 1882 collegano la Val Vermegnana con la Val Roya, allora ancora italiana, restano inagibili. Il maltempo si è anche portato via almeno una cinquantina di metri della strada che scende verso la Francia, a pochi metri dall'imbocco della galleria. Ci sarà dunque presumibilmente un nuovo stop per un'opera che però in realtà è in attesa da 19 anni. Furono i Savoia nel 1873 a riprendere un progetto pensato per agevolare il passaggio tra Piemonte e Liguria e a portarlo a termine in 9 anni. Nel XXI secolo invece ne sono serviti 19 per scavare parzialmente una seconda galleria. Poco più di 1100 metri lato Italia e quasi 500 in Francia. Cosa è successo? Andiamo con la consueta ricostruzione italiana. Il 30 luglio 2001 si insedia la commissione intergovernativa incaricata di scegliere il miglior progetto. Da allora ci vogliono 4 anni per l'approvazione del preliminare da parte di ANAS e ne passano altri 4 per arrivare alla prequalifica, quindi 8 anni solamente per far più o meno partire la gara. Nel 2012 viene sospesa la gara di aggiudicazione, solo nel novembre del 2013 si aprono i cantieri. Per 3 anni i lavori che ANAS è affidato ad un gruppo di aziende composto da grandi lavori Fincosi, Toto Costruzioni, Generali e Progin procedono senza intoppi. Poi ci si scontra con la montagna. Dal 2016 sul lato francese la talpa trova il limo invece della roccia, stop da giugno a settembre. In Italia si scava troppo vicino ad una falda acquifera e i lavori vengono interrotti per 2 mesi. I tecnici dell'ANAS dicono a febbraio 2020, attenzione, l'opera sarà ultimata, ma in realtà nel 2017 arriva un'inchiesta della Procura di Cuneo che ferma tutto un'altra volta. Morale. Si arriverà presumibilmente, se tutto va bene, alla seconda metà del 2024. Vi ricordo ancora una volta, la commissione intergovernativa incaricata di scegliere il miglior progetto si riunì il 30 luglio del 2001 e se tutto va bene ci vorranno 23 anni per il raddoppio appunto del traforo del Tenda. Veniamo, direi, alle questioni economiche e che riguardano un po' tutti, che sono innanzitutto l'apertura del giornale, che è dedicata al ritorno delle cartelle esattoriali. Siamo a pagina 3. perché sta passando un po' sotto silenzio questa cosa, però va sottolineata. Scrive Gian Maria De Francesco che 9 milioni di cartelle esattoriali rischiano di abbattersi sui contribuenti italiani tra 10 giorni, o almeno a partire da quella data. Il decreto agosto, che oggi sarà in aula al Senato per il voto di fiducia, prevede infatti lo stop fino al 15 ottobre della riscossione coattiva. Questo significa che da giovedì della prossima settimana sia Agenzia delle Entrate e Riscossione che gli agenti locali e i comuni potranno riprendere le attività usuali, inclusi i pignoramenti di stipendi o pensioni. L'amministrazione finanziaria è tenuta infatti a procedere all'esecuzione di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti doganali e ingiunzioni fiscali. Qual è il punto che ha prevalso questo orientamento? Perché il Tesoro è alle prese con un calo delle entrate notevole causato dalla pandemia, che non sarà compensato almeno nel breve dalle risorse del Recovery Fund. A limitare ulteriormente i margini di manovra nel passaggio successivo a Montecitorio c'è anche la necessità di approvare definitivamente il decreto entro il 13 ottobre, pena la decadenza. Il commento viene affidato a Francesco Forte, che il titolo è questo: così l'erario divora se stesso. La cessazione dello stop ai pignoramenti esattoriali il 15 ottobre, quindi la ripresa della mannaia fiscale, è un non senso giuridico, dice, un colossale errore tributario di politica fiscale. La cessazione dello stop era collegata alla cessazione dello stato di emergenza da coronavirus, ma il governo ha ora prorogato questa emergenza sino a tutto il gennaio 2021 e questo logicamente comporta che lo stop dei pignoramenti continui fino a tale data. Al non senso giuridico si aggiunge un colossale errore di politica tributaria. Se il fisco azzanna i contribuenti insolventi, aggiunge nuovi danni al sistema economico, che nel 2020 registra una caduta del PIL del 9% e l'anno prossimo avrà solo una mezza ripresa. La regola aurea di un fisco cattivo ma intelligente è di tosare la pecora senza spellarla. Se il fisco non tiene conto di ciò, distrugge il vello delle pecore, scrive Francesco Forte. E ancora sulle questioni economiche e sui soldi che mancano, fatemi chiudere con, c'è un altro pezzo importante di questo commento di Francesco Forte, però, che non voglio che manchi alla vostra attenzione. Se le mannaie del fisco rischiano di tradursi in insolvenze bancarie per alcuni debitori, questo si traduce in un aumento dei crediti deteriorati delle banche che già sono in crescita e questo genera una situazione pericolosa. Insomma, i rischi connessi a questa vicenda ci sono. A proposito dei conti pubblici, c'è un altro elemento sul quale invece ci porta il Messaggero a pagina 8 e che voglio portare alla vostra attenzione, che sono a rischio le ricariche dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Perché? Perché i fondi non bastano, in questo caso. Cosa succede? Che stando alle stime dei tecnici di Via 20 Settembre, il reddito di cittadinanza, scrive Francesco Bisozzi a pagina 8 del Messaggero, l'anno prossimo potrebbe venire a costare quasi 9 miliardi e mezzo di euro se le famiglie percettrici, come ritenuto verosimile, dovessero fare strada facendo 1,5 milioni. Per questo il governo cerca 2 miliardi da inserire nella manovra di finanza pubblica da approvare il 15 ottobre. Per il cavallo di battaglia dei 5 Stelle sono stati autorizzati limiti di spesa di 5,9 miliardi nel 2019, 7,1 nel 2020, che basteranno appena, 7,3 miliardi nel 2021 e 7,2 per gli anni successivi. Ma appunto, Covid-19 ha spinto molte famiglie sotto la soglia di povertà e quindi più persone avranno bisogno del reddito di cittadinanza e il rischio è che vengano a mancare 2 miliardi o che venga tagliato appunto l'assegno. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. È stato ripristinato finalmente WhatsApp, se volete scriverci e mandare le vostre voci là, il 349-238-6666 come sempre. Ci siamo, così come restiamo in diretta su Facebook, ci sono gli SMS, insomma tutti i punti di contatto che ben conoscete. Veniamo alle questioni Covid o correlate a Covid, e inizierei però dal famoso vaccino anti-influenzale, del quale lungamente abbiamo parlato nei giorni scorsi e del quale torneremo a parlare oggi. Lo faremo col presidente degli industriali del settore farmaceutico, col presidente di Farmindustria, anche per avere un po' di chiarezza su questo fronte, capire un po' meglio come stanno le cose sia sul vaccino anti-influenzale sia sul a che punto siamo dal lato del vaccino anti-Covid. E vi porterei a questo punto alle cronache milanesi, o lombarde per meglio dire, del Corriere della Sera, le quali ci raccontano di una gara flop in Lombardia per 1,5 milioni di dosi, non la sola, e la testimonianza che la partita si fa decisamente difficile. Racconta Simona Ravizza: 1,5 milioni di vaccini contro l'influenza che avrebbero dovuto arrivare in Lombardia e che invece non arriveranno. L'ultima gara della regione non è stata aggiudicata. Emerge da un documento di Aria, l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti, che il 30 settembre scrive: l'unica offerta pervenuta risultata inappropriata, in quanto rispetto alle prescrizioni del disciplinare non prevedeva un unico prezzo di offerta e contemplava consegne di fornitura in data successiva al 21 novembre 2020, posto come termine massimo di consegna. Qual è la morale? È che la Lombardia, in Lombardia come in altre regioni, a dir la verità, però il caso lombardo è per certi versi esemplare, perché è la regione d'Italia più colpita da Covid-19, scrive Simona Ravizza che la Lombardia è riuscita a ottenere 1,868,000 vaccini per adulti e 430,000 per bambini. Solo gli over 60 che dovrebbero vaccinarsi sono quasi 2,2 milioni. In più ci sono tutte le altre categorie a rischio e chi spera di acquistare il vaccino in farmacia. La morale è molto semplice: le gare si sono fatte, ma i vaccini non si sono trovati e quindi c'è una carenza di vaccini anti-influenzali. Qua lo ricordiamo ancora una volta: il vaccino anti-influenzale serve a dare ovviamente una protezione e a evitare, come più volte abbiamo raccontato, che ci sia una confusione tra i sintomi dell'uno e dell'altro, a dare una parziale protezione. E poi qua nel pezzo di Simona Ravizza c'è un po' tutta la ricostruzione di quello che è avvenuto, delle aste che sono partite, in che date sono partite. La centrale acquisti Aria il 23 marzo certifica il fallimento della prima gara, perché sono state offerte superiori alla base, sono state presentate offerte superiori alla base d'asta. In quel momento GlaxoSmithKline è disposta a fornire 1,3 milioni dosi di vaccini a 5,9 euro a dose, ma la gara indetta ad Aria è per 4,5 euro a dose, verosimilmente nel tentativo di risparmiare. Una seconda gara viene revocata il 21 maggio perché semplicemente i vaccini non si trovano. Dopo le quattro gare riuscite durante l'estate, il 24 agosto si ripropone il problema, e così a sfilare finché appunto la Lombardia si trova in difficoltà e senza vaccini, come dicevamo, presumibilmente non l'unica regione d'Italia. Intanto nel Lazio si sta facendo pressing, non solo nel Lazio ma un po' in tutta Italia, da parte dei presidi, perché venga stabilita come regola nazionale il fatto che i ragazzi dei licei, delle superiori, facciano metà a casa. In alcune scuole già succede, alcune scuole in autonomia l'hanno già deciso. Si dividono i ragazzi in due gruppi, metà fanno lezione da casa, metà in presenza, e poi ci si alterna in presenza e a casa. Questo per non ridurre eccessivamente la socialità, per non dare un eccesso di alienazione da didattica a distanza, e insieme consentire di rispettare le norme di sicurezza. Sta arrivando un pressing dalle regioni perché su questo arrivi una norma nazionale, ci racconta il Messaggero a pagina 3. La spinta verso l'alto dei contagi, coincidente con oltre 2 settimane trascorse dalla riapertura delle scuole, rappresenta un campanello d'allarme, racconta Mauro Evangelisti. cosa faremo se la tendenza non si fermerà e l'incremento di nuovi casi positivi diverrà costante, supereremo il muro dei 3.000-4.000 infetti al giorno. La priorità, come ha ripetuto anche ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, lo abbiamo sentito prima, è la scuola, che deve venire prima di tutto, ovviamente anche del calcio. Ma sui tavoli di alcune regioni, in particolare del Lazio, già circola un piano B. Per le superiori, in caso di necessità, si può ricorrere alla turnazione a scuola. 50% degli studenti in presenza, 50 a distanza. Sarebbe applicata alle superiori perché ovviamente i ragazzini dai 14 anni in su li puoi lasciare a casa a fare lezione, mentre invece i bambini più piccoli, i ragazzini e bambini più piccoli con loro ovviamente non lo puoi fare. Il traffico e poi una volata sulle questioni calcistiche, visto che siamo sul Covid, Juve-Napoli, tutta la discussione, la Juve si sarebbe dovuta ritirare anche lei, cosa ne sarà di questo campionato, che un po' che ne dica il ministro Speranza, qualcosa di importante lo rappresenta. Una pausa. Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Mattino. Voglio precisare con un ascoltatore che evidentemente ha capito male, o forse può darsi anche che mi sia spiegato male io. Non ho mai detto che il vaccino anti-influenzale dia una parziale copertura dal Covid. Mai detto questo. Veniamo alle questioni calcistiche. E quindi. Forse possiamo partire dal Corriere della Sera. Blocchi a catena con regole diverse, ora il campionato si scopre a rischio, il titolo del pezzo di Alessandro Bocci e Arianna Ravelli. E l'analisi è firmata da Mario Sconcerti. La storia ormai più o meno la sapete tutti, che è una storia, se volete, anche esemplare, no? Il Napoli che viene bloccato dalla ASL dopo la scoperta di uno o due positivi, adesso non mi ricordo, viene bloccato alla ASL, ASL campana che gli dice: guardate, non potete partire per Torino per giocare contro la Juventus, la Lega Calcio che dice si gioca lo stesso, la Juventus che si presenta in campo, e poi ci sarà la decisione del giudice sportivo che sarà presumibilmente un 3-0 a tavolino per la Juve. Non si gioca se decade il compromesso, scrive Mario Sconcerti. Il Napoli non perderà la partita con la Juve a tavolino. Finché il caso rimarrà in mano al calcio, sì. Poi interverranno le regole sanitarie nazionali, che sono tutte dalla parte del Napoli. Ma la vittoria legale del Napoli aprirà una strada che non farà arrivare il campionato a Natale. Sarà riempito di rinvii fino a essere travolto. Se cade il compromesso per il quale un positivo viene considerato un infortunato, lo si isola per 7 giorni e si va avanti con gli altri, se cioè un positivo torna a essere un cittadino qualsiasi, se si devono rispettare le regole nazionali e regionali, non si può giocare a calcio. Una partita è un assembramento che si raddoppia durante i trasferimenti in pullman, voli privati, spogliatoi, e si conclama sul campo durante la gara. Il calcio è un gioco fuori legge per principio, vive di pedate agli altri, scrive Mario Sconcerti. E si dedica in prima pagina sul Libero, è dedicato a questo anche l'editoriale di Vittorio Feltri, però su un altro fronte dice: signori, qua non possono decidere le ASL, il calcio è importante ma tutti se ne fregano, il titolo. Spadafora dei 5 Stelle è il ministro dello sport, quindi tocca a lui decidere se il campionato di calcio deve proseguire o essere sospeso. Chi altro potrebbe deliberare in proposito? Si dà invece il caso che in campagna sia l'ASL a pretendere che il Napoli, avendo 2 atleti affetti da Covid, non si rechi a Torino per giocare la partita contro la Juventus. Comprendiamo la preoccupazione dell'ente sanitario, scrive Feltri, ma ci sembra illegittimo il suo ordine perentorio teso a impedire un incontro calcistico di cartello solo perché il morbo pestilenziale non trascura i giocatori di calcio. Chi se lo è beccato osservi le regole, si mette in quarantena, cerchi di guarire in fretta, ma non può impedire ai colleghi di seguitare a tirare pedate al pallone. Esistendo un dicastero che disciplina le attività agonistiche, non ha senso che intervenga l'ex mutua per disporre chi possa continuare a esercitare uno sport e chi invece debba ritirarsi in attesa di tempi migliori. Così Vittorio Feltri, che chiude il suo pezzo così: sollecitiamo Spadafora a non farsi prendere per i fondelli da quattro sprovveduti di un ASL del piffero. Così, così Feltri con il suo tipico stile. Qua poi vabbè c'è la Gazzetta dello Sport, pagina 11, con Spadafora che cerca un piano di pace, dice serve prudenza, il ministro incontra Gravina e Dalpino, la tutela della salute prima di tutto, vedremo nell'arco della giornata che cosa succederà. Di certo la vicenda non si chiude in questo modo. Il fine settimana, come ben sapete, è stato il fine settimana che ha portato la Lega e il centrodestra a Catania in vista dell'udienza preliminare al processo per Salvini. I magistrati, l'accusa ha chiesto il proscioglimento, è stato chiesto di sentire il Presidente del Consiglio, il quale ha detto sì, sicuramente andrò dai magistrati a parlare. Sullo sfondo c'è uno scontro che abbiamo rappresentato ancora una volta venerdì nella parte dedicata alle interviste alle 8.35, che è quello sui decreti sicurezza o sui decreti Salvini all'interno del governo. Apprendiamo un elemento nuovo in queste ore, ossia che insieme alle modifiche che si vogliono fare ai decreti Salvini per renderli compatibili con le indicazioni che sono arrivate dal Quirinale e anche compatibili con la nuova maggioranza che ha una visione diversa, ebbene sono in arrivo altre modifiche, ben lo raccontano Liana Milella e Alessandra Ziniti, e sono delle modifiche che utilizzano questo veicolo dei decreti sicurezza per inserire quelle che vengono definite le norme Willy, cosiddette, perché sono delle norme sul tema delle risse che vengono fatte nel nome di Willy Monteiro Duarte. Ne abbiamo parlato infinitamente della vicenda, il ragazzo di 21 anni ucciso a botte a Colleferro durante appunto una rissa nel tentativo di difendere un suo amico. Cosa comprendono queste norme? Raccontano Liana Milella e Alessandra Ziniti. Il reato di rissa, oggi punito da 3 mesi a 5 anni, passa da 6 mesi a 6 anni. E qua potremmo dibattere infinitamente se alzare la pena serva a qualcosa, cioè sia un deterrente ad evitare una rissa, o se davanti a una discoteca alle 4 del mattino con un sacco di gente sbronza non si guardi tanto a quello ma a altro. Così come la multa, oggi di soli 309 euro, schizza a 2000. E qua c'è questo pezzo che è curioso: potrà essere applicato a chi partecipa a una rissa nella quale uno dei presenti riporta lesioni o muore. Il solo fatto di essere presente consente di contestare il reato. I questori potranno applicare poi subito il DASPO per chi negli ultimi 3 anni è stato denunciato dopo gravi disordini in luoghi pubblici e per chi ha spacciato droga all'interno, davanti alle scuole, all'università o a luoghi di ritrovo. Qualora il DASPO venga violato è previsto il carcere fino a 2 anni e una multa da 8 a 20.000 euro. Ormai l'espressione DASPO viene usata comunemente così, ma vuol dire evidentemente che queste persone non si possono avvicinare alle zone nelle quali sono state pescate all'atto di appunto spacciare, di commettere violenze e via dicendo. Insomma, le pagine politiche sono piene, ma questo ve lo do così en passant perché è veramente in evoluzione della vicenda dei 5 Stelle. Lo strappo di Casaleggio, come lo definisce La Repubblica, pagina 14, il presidente Russone, l'anniversario del Movimento 5 Stelle, dice che è pronto a togliere il supporto della piattaforma e sostenere altri movimenti. Di Battista sarebbe con lui, l'alto là sarebbe arrivato dall'area governista del Movimento 5 Stelle. Come vedete sono un po' di scontri e di spaccature per quello che Sebastiano Messina su Repubblica definisce messaggi in codice per un divorzio già consumato. GR24, ci ritroviamo tra poco con il consueto appuntamento con Paolo Amieri, poi parleremo col ministro Sergio Costa del dissesto idrogeologico e ovviamente non solo di quello e di vaccini, a tra poco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.